Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Per sempre, il nuovo romanzo di Susanna Tamaro pubblicato da Giunti. Stavolta la scrittrice, diventata famosa in tutto il mondo con Va dove ti porta il cuore, indaga il dolore di un uomo che ha perso la moglie. Il protagonista è Matteo e l'autrice lo descrive così. Ma Matteo è un uomo molto normale, diciamo, innamorato della moglie, con una buona attività professionale, che a un certo punto, la cui vita a un certo punto viene stravolta da una tragedia. E dunque con questa tragedia deve, come dire, riprogrammare tutta la sua vita in qualche modo. Cioè, l'incontro col dolore ci costringe a fare i conti con la realtà profonda della nostra vita ed è quello che tocca a Matteo. Questo dolore è l'assenza della moglie. Che cosa capita nella vita di Matteo? Come la vive questa assenza? Beh, naturalmente quando uno ama una persona, di solito immagina di stare con questa persona per sempre, come dice il titolo del libro. E quando questa, diciamo, scomparsa avviene non per una scelta personale di dissapore, ma per una tragedia, io credo che ci si trova come se la strada viene interrotta, perché c'era un progetto, c'erano dei figli, c'era una vita davanti e non c'è più. Dunque credo che sia una delle esperienze più disastrose che uno possa fare nella vita, la perdita della persona amata, come la perdita di un figlio, sono delle perdite, diciamo, inconsolabili sicuramente, no? Però sono un punto di partenza per poter fare uno scavo molto profondo. L'unico modo per sopravvivere, insomma, andare a fondo a se stessi in questi eventi così tragici. Matteo come vive questa tragedia? Come si comporta proprio quotidianamente? Ma naturalmente va a fondo, infatti la frase del libro è: bisogna perdersi per ritrovarsi, no? È normale quando succede una tragedia di questo tipo. E premetto che il libro, no, è un libro pieno di amore per la vita e pieno di speranza, perché uno pensa che magari parlando di una tragedia sia un libro, invece è un libro proprio contrario alla morte in tutti i sensi. Però appunto bisogna perdersi per ritrovarsi, dunque prima si smarrisce in una vita molto disordinata e poi lentamente ritrova il senso, perché il senso che è il senso dell'amore, insomma, con un lungo percorso, ritirandosi in montagna a vivere da solo, ascoltando la natura, curando la natura, piano piano ritorna in se stesso e riesce a riallacciarsi al senso profondo della vita e al fatto che forse la morte in realtà non esiste, ma è solo può essere soltanto un cambiamento di stato, cioè ci potrebbe essere un'altra vita diversa che noi non conosciamo, non immaginiamo, ma siamo un'altra dimensione oltre la morte. Quanto conta per lui questo rapporto quasi simbiotico con la natura? Beh, la natura è la grande guaritrice, in quanto la natura ci riporta alla nostra natura e dunque al mistero della nostra natura, al fatto che noi siamo c'è la morte nella nostra vita, purtroppo sarebbe lì se non fosse così, ma in tutta la vita c'è la natura, c'è la morte, no? Dunque lavorare, vivere la natura vuol dire contemplare questo continuo ciclo di morire e rinascere. Dunque in questo caso la natura fa, diciamo, la terapeuta, tra virgolette, ma perché la natura viene vista come il creato e se attraverso il creato arrivo al creatore, dunque una visione mistica della natura. E allora nel momento in questa visione la natura diventa la guaritrice dell'anima, perché ci inserisce in un discorso molto più ampio. Non è la prima volta che lei parla di natura nei suoi libri, anche per esempio nei suoi libri per ragazzi. Come mai questo legame così forte? Perché per lei è così importante? Ma veramente non lo so, ma io sono cresciuta in città, dunque non posso più nei cemento, anzi c'è una fabbrica puzzolentissima vicino. Dunque non è che sono cresciuta in un ambiente, diciamo, bucolico. Però ho sempre avuto questa passione per la natura assoluta, per gli uccelli, per le piante, era qualcosa proprio della mia natura e sono sempre stata veramente felice, ho avuto una vita abbastanza sofferente nella mia infanzia, anche dopo, ma la natura mi ha sempre pacificato, trovo sempre qualcosa che mi parlava profondamente al mio cuore e poi sono molto appassionata perché proprio studio la natura, gli insetti, le piante, questo si vede leggendo i miei libri, con una conoscenza approfondita di tutto il mondo, diciamo, animale e vegetale, perché voglio dire, amare vuol dire anche conoscere. Com'è nata l'idea di questo romanzo? Ma è nata con l'idea di raccontare una ricerca spirituale, cioè di riportare in primo piano i fondamenti della vita dell'uomo, perché credo che la nostra epoca è un'epoca di grande crisi e di grande frattura dell'umanità, nel senso delle cose più importanti dell'umanità, no? Perché siamo portati a vivere in superficie, a vivere rapidamente, a vivere consumando, mentre l'uomo per sua natura ha necessità per essere felice, per avere una vita, diciamo, piena, una vita degna di questo nome, che non vuol dire felice stupidamente, vuol dire presente a se stessa, complessa, ha bisogno di essere legato ai rapporti profondi e all'idea del per sempre. Quanto conta per Matteo la spiritualità nel tentativo di uscire da questo momento di dolore? Naturalmente all'inizio Matteo da bambino, che Matteo è nato nei primi anni 50, e ha una reazione nell'infanzia, è attratto dall'argomento religioso, ma poi ha un rifiuto davanti, diciamo, la come dire, il fatto che siano così imbalsamate, cose che non hanno più rapporto con la realtà che lui vive, no? Dunque deve abbandonare queste idee infantili sulla fede e ricominciare un percorso che passa attraverso il dolore per ricostruire se stesso. Dunque capisce il fatto che la moglie sia sente che la moglie non è morta in qualche modo, lui sente costantemente che la moglie da qualche parte c'è, e forse questo anche quando va da una sensitiva, no? Perché quello che molte persone, io purtroppo anche diverse amiche hanno perso i figli, si desidera assolutamente poter parlare ancora, no? Soprattutto se è una cosa violenta, tipo un incidente che si è interrotto improvvisamente, con una malattia si è preparata, ma un incidente in un secondo una persona non c'è più, dunque rimane solo di parlare. Appunto va dalla sensitiva perché in fondo sente che la moglie c'è ancora, e forse in qualche modo la moglie lo guida ancora. Dunque la ricerca spirituale forse anche è cercare di entrare in contatto con questa dimensione in cui lui percepisce ancora la moglie. E per Susanna Tamaro quanto conta la spiritualità? Beh, è il fondamento di tutta la mia vita. Se io non fossi convinta, diciamo, che la vita ha un senso in questa direzione e che il senso della vita è l'amore, mi butterei dalla finestra già tra 10 minuti, diciamo, praticamente. Però siamo abituati, cioè siamo molto, come dire, pervertiti mentalmente su questo argomento, perché siamo condizionati dal pensare che sia un'ideologia, che sia qualcosa da accettare o rifiutare, che invece è qualcosa che riguarda ogni uomo, ogni uomo che nasce sulla terra, come dire, dovrebbe, ha l'esigenza di rispondere a queste domande. Poi c'è per chi è più forte, l'esigenza per chi è meno forte, ma è proprio il nostro cammino di uomini che ci porta a interrogarci sulla morte. Dunque ogni cammino spirituale è un'interrogazione sulla morte, poi ognuno incontra nella vita le risposte che sa incontrare, insomma, non è obbligatorio entrare, come dire, in un recinto, ma è obbligatorio secondo me provare così meraviglia e anche un certo timore del fatto che c'è una parte della vita che è misteriosa, ci sfugge, insomma, no? Che rapporto ha con la scrittura? Ma per me la scrittura è una grandissima fonte di sofferenza, infatti scrivo molto raramente, cioè non scrivo tutto l'anno, per dire, scrivo quando scrivo un libro. E perché poi nei miei libri tratto sempre della sofferenza, tra le mie storie, tra i miei libri questo è il libro più, è un libro gioioso secondo me, questo, nonostante parli della morte, però il punto di partenza è sempre è la riflessione sul male, sulla morte, sull'assenza. Dunque è sempre un grande travaglio, perché io devo come dire, identificarmi nei personaggi, dunque vivere tutto quello che vivono loro sulla mia pelle, dunque è abbastanza faticoso. È faticoso, e quando è che dedica del tempo alla scrittura? In genere quando scrive? Ma quando sento di avere una forte esigenza interiore. Io sono una persona che ama, non sono appunto scrittore classico che passa tempo a leggere, a scrivere, io amo molto fare le cose pratiche. Come dico, sono una devota della realtà. Mi piace fare l'orto, cucinare, allevare gli animali, sono molto pratica, molto concreta. E ha anche un carattere felice, cioè un buon carattere, mi sveglio di buon umore, eccetera. Però a un certo punto nella mia vita compare una strana inquietudine, come un'ombra, e quando compare quest'ombra comincio a pensare che una storia si sta, come dire, formulando tipo una nebulosa da qualche parte. Man mano che l'inquietudine cresce capisco che mi devo avvicinare alla scrittura, e quando diventa molto pressante questa inquietudine incomincio a sedermi, a provare a scrivere, insomma. E che rapporto hai invece con la lettura? Ma leggo, ho letto moltissimo quando ero più giovane, naturalmente. Adesso quando scrivo è complicato, perché quando scrivo, quando penso a un libro, non posso leggere altri libri di narrativa, perché, come dire, mi si sovrappongono. E siccome un libro, io passo molti mesi, per non dire anni, per ideare un libro, magari leggo cose inerenti al libro che voglio scrivere, ecco, è una lettura mirata, però leggere per il piacere di leggere mi capita raramente, di estate, in vacanza, e per me è una cosa bellissima, non posso concedere, insomma, un mese di letture diciamo gratuite, non legate al mio lavoro, per il piacere di leggere. E questa era Susanna Tamaro, ora in libreria con Per Sempre, pubblicato da Giunti. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.